C'erano in tanti, hanno costruito i fabbricati, avevano diviso le femmine dai maschi, perché il villaggio stava crescendo, quindi c'erano molte più famiglie, però. E poi ricordo, mi sembra in seconda elementare, proprio perché eravamo in tanti, ci andavamo a scuola anche il sabato, facevamo i turni.